We'll see how it records. See? Pronto. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Homage to the Buddha, the blessed, noble, and fully self-enlightened one. Omaggio al Buddha, al nobile, al beato, al pienamente illuminato. So this evening I thought I would revise for those of you who are old hands at Buddhism, and introduce those who are new to the dependent, to the concepts of dependent origination. Quindi questa sera volevo ripassare per coloro di voi che già hanno un po' di esperienza nella pratica e introdurre per chi invece non ce li ha, per i nuovi, i concetti della originazione dipendente. The phrase, the wheel of dependent origination or interdependent origination was made up or coined by the Tibetans. Quindi questo termine, questa espressione, la ruota della originazione dipendente o dell'originazione interdipendente o della produzione, giusto Piero? Dipendente, condizionata, è stata coniata dal buddismo tibetano. I'm sure most of you have seen the picture of the wheel of dependent origination. Eh? Sicuro che molti di voi hanno visto questa immagine, no, della ruota, della, sì, io la chiamerò l'originazione, sì, dipendente. In Theravada it is just dependent origination. Nella Theravada si chiama originazione dipendente. Yeah. And before I start, I would like again to mention Ananda. Ma prima di cominciare vorrei di nuovo menzionare, Ananda, whom you remember yesterday became fully enlightened on the way to the bed. Come vi ricorderete, ieri è diventato pienamente illuminato sulla via del letto. He was a cousin of the Buddha. Lui era un cugino del Buddha. And when he asked the Buddha if he could be his personal attendant, he made a condition. The Buddha made a condition. Ananda made a condition. Quindi quando lui ha chiesto al Buddha di diventare il suo, come dire, attendente personale, ha posto una condizione. He said that he must attend every talk the Buddha gives, and if he misses one, the Buddha must tell him what he spoke about. Quindi la condizione era che lui dovesse essere presente a tutti i discorsi del Buddha, e se invece fosse stato assente, il Buddha doveva ripetergli quello di cui aveva parlato. Mm. And it seems as though he had this amazing audio memory. E quindi pare che avesse questa memoria incredibile. Mm. So obviously he was of a very sharp intellect, good mind, and this wonderful memory. Quindi aveva questo intelletto molto, molto forte, molto vivace, e ovviamente una buona mente e un'ottima memoria. So after a few years, maybe 10, 15 years, he said to the Buddha, I think now I understand this doctrine of dependent origination. Quindi dopo una quindicina, ventina di anni ha detto al Buddha, credo adesso di aver capito questa teoria dell'originazione dipendente. And the Buddha said, oh no Ananda. No, no, Ananda. This teaching is very subtle, goes very deep. Questo insegnamento è molto sottile, ma molto in profondità. So that was a warning to a clever person like Ananda, so you have to take my words with this caution. Quindi questo era un avvertimento per una persona molto intelligente come Ananda, quindi voi dovete anche voi prendere questo avvertimento, avere questa attenzione. Diciamo. When listening to me. Quando state ascoltando me. So you'll notice that when we chant in the morning, it goes up from ignorance to sick to, you know, all the degrees of human misery. Quindi avete notato quando recitiamo questo al mattino che comincia dalla ignoranza e va via via salendo, attraversando tutti i vari gradi della condizione triste dell'uomo. When the process of purification and awakening begins, we don't come backwards on that list. Quindi quando comincia questo processo di purificazione, di risveglio, non torniamo indietro per quella lista. We start again at the bottom, but we say that because there isn't this, there isn't that. Ricominciamo dall'inizio, ma diciamo, poiché non c'è questo, non c'è quell'altro. And the basic position that all sentient beings, but talking specifically of human beings, is that we begin from a position of don't know. Quindi la posizione principale che riguarda tutti gli esseri senzienti, ma in modo particolare gli esseri umani, è che si parte da una posizione in cui noi non conosciamo. Sometimes, in English anyway, they use the word ignorance. Quindi, spesso, qualche volta, insomma, in inglese si usa la parola ignoranza. But this for me has a pejorative meaning, you know, like you're ignorant because you're stupid, something. Però per me questo ha un significato un po' notato un po' peggiorativo, come dire, tu sei ignorante perché sei stupido. But it's not that, it is simply don't know. Non è così, è semplicemente un non conoscere, un non sapere. And it is with this don't know that underlies the whole of our lives. E quindi è proprio questo non conoscere che soggiace, che sta sotto tutta la nostra vita. Our problem is that we think we know. Il nostro problema è che noi pensiamo di conoscere. And this is our essential delusion. Ed è questa la nostra illusione principale. Yeah. For instance, we think we are human beings. Per esempio, noi crediamo di essere esseri umani. This is a big mistake. E questo è un grande errore. So, beginning with this idea that we don't know, we then enter into this life and into every moment from that position of don't know. E quindi noi da questa posizione del non conoscere noi entriamo in tutti gli aspetti della nostra vita, della vita. Now, if you consider if you consider the fetus in the womb. Quindi considerate il feto nell'utero. What does it know? Cosa conosce? From that position of not knowing anything, the senses begin to grow and perhaps it hears the mother's heartbeat, the mother's voice, the warmth, feels the warmth. Quindi probabilmente da quella posizione di non conoscere nulla comincia a attivare i sensi, quindi a sentire la voce della madre o il battito del cuore, il calore. And then of course when it's born the five senses are more developed and more information comes in. Quindi quando nasce i cinque sensi sono più sviluppati e cominciano ad arrivare maggiori informazioni. So it has no way of understanding these stimuli. Quindi non ha nessun modo per comprendere questi stimoli. It begins from don't know and then suddenly there is light, there is hearing, there is touch, there is smell. Quindi parte dal non conoscere e poi improvvisamente c'è la luce, c'è il sentire, c'è il toccare. And through all these things it begins to create a world. E attraverso tutte queste cose comincia a creare il mondo. It then begins to grow with intelligence and begins to be informed at deeper levels about the language, the culture, the beliefs of that culture. Quindi comincia poi a crescere, a conoscere a un livello più profondo la cultura, il linguaggio e le credenze di quella cultura. And it has no way of criticizing or understanding it other than the way it is given. E non ha altro modo per giudicare o criticare o farsi un'opinione che non sia quella che gli viene data. So this poor little human being takes on not only all the goodnesses of the culture, but all its delusions. E quindi questo poveretto, insomma, riceve non solo tutte le cose buone da quella cultura, ma anche tutte le cose cattive. And throughout its life, should we say throughout its life, anche tutte le illusioni di quella cultura. Sì. And throughout its life, it begins to develop what we call its character and personality. E per tutta la sua vita comincia a sviluppare quello che noi chiamiamo il suo carattere, la sua personalità. Now, in Buddhist psychology, and this is why I am trying to stress for you, catching all your intentions, the whole psychology of the creation of this me or mine begins with an intention. Dunque, nella psicologia buddista, ed è per questo che io metto proprio l'accento sull'intenzione, secondo la psicologia buddista, appunto, tutto nasce proprio il io, questo concetto di me e di io, nasce proprio dal mettere questa intenzione. Intenzione. So, when we have an intention, we therefore put energy into that intention, we empower it through an act of will. Quindi quando abbiamo un'intenzione, noi mettiamo energia in quella intenzione, noi gli diamo forza attraverso un atto di volontà. Consider walking meditation. Prendete per esempio la meditazione camminata. So you can be standing there and you can feel and know intending to walk. Quindi potete stare lì in piedi e sentire, conoscere l'intenzione di camminare. And you can keep saying intending to walk, intending to walk, intending to walk, but nothing moves. Potete continuare a pensare intenzione di camminare, intenzione di camminare, intenzione di camminare, ma nulla si muove. Have you experienced that? Do you see that? Good. So what is it that takes something from potential into an actual? Quindi cos'è che porta qualcosa da un potenziale ad una cosa effettiva? This is what the Buddha referred to as will. Questo è ciò a cui si riferiva Buddha quando parlava di volontà. So, once you put will into an intention, it becomes an action. Quando mettete la volontà in un'intenzione, diventa un'azione. And if you keep repeating the action, it becomes a habit. E se continuate a ripetere questa azione diventa un'abitudine. And if you have a whole lot of habits, this is what we call the personality. E quando avete un sacco di abitudini, questo è quello che noi chiamiamo una personalità. So all this conditioning arises with that ignorance, with that not knowing. Tutto questo condizionamento nasce da quel punto di partenza del non conoscere. So the first two steps of the wheel of dependence origination are not knowing, and then we have these habits. Quindi i primi due passaggi, diciamo, di questa ruota dell'originazione dipendente sono il non conoscere, il primo, e poi l'abitudine. Now, there are two teachings of this dependent origination. Ci sono due tipi di insegnamento a riguardo di questa originazione dipendente. The traditional teachings are that the dependent origination stretches over three lives. Allora, l'insegnamento tradizionale dice che questa originazione dipendente si allunga, diciamo, alla durata di tre vite. So, we come into this life form with that ignorance and with that not knowing and the conditions of the previous life. Quindi noi entriamo in questa vita con questa condizione di non conoscenza e le condizionamenti della vita precedente. Mm. And at the end of the dependence origination, you see it says, and then there is being born, growing old and dying. Poi, come vedete, alla fine della ruota, della originazione dipendente, c'è il crescere, il diventare vecchi e morire. And that's the future life. E quella è la vita futura. But for us as meditators, it's much more important to see this as happening within the present few moments. Ma per noi meditatori è molto più importante vedere come questo accade nel momento presente. So from the moment we are born, there is this underlying not knowing. Quindi dal momento in cui nasciamo c'è questa sottostante stato di non conoscenza. Now, what does this not knowing refer to? You see, it refers to not knowing the three characteristics. A cosa si riferisce questo non conoscere? Si riferisce a non conoscere le tre caratteristiche. We don't see, really see, that things are impermanent. Non vediamo realmente che le cose sono impermanenti. We don't see that we cannot attain perfect peace and happiness in the sensual world. Non riusciamo a vedere che non potremo mai ottenere pace e la felicità attraverso il mondo sensuale, sensoriale. And we don't see that this idea of me or mine, a human being, a person, is just a concept. E non riusciamo a vedere che questa idea di io, mio o della personalità umana è solo un concetto. That's why I said at the beginning, it is a big mistake to think of ourselves as human beings. Per questo ho detto all'inizio che è un grande errore considerare noi stessi degli esseri umani. When I say that, I don't mean in a conventional sense. Of course, in a conventional sense, we're human beings. But in an ultimate sense, we're not human beings. Ovviamente non lo dico in un senso convenzionale. In un senso convenzionale siamo ovviamente tutti degli esseri umani. Ma per quanto riguarda la realtà ultima, non lo siamo. Yeah. Simply because we die. Semplicemente perché moriamo. Yeah. So, with these two underlying states, the not knowing and the conditions, we enter into this psychophysical organism. Quindi da questi due stati sottostanti, del non conoscere e delle condizioni, noi entriamo in questo corpo psicofisico. Mm. I should also say the Pali word, so that those of you who know will know what I'm referring to. Ecco, adesso dice anche i termini in Pali, così chi lo conosce sa a cosa si sta riferendo. Mm. So it's ignorance is avidya. Quindi l'ignoranza è avidya. And the conditions we call sankhara. E sankhara sono le condizioni. Sankhara. This psychophysical organism is nama rupa. Questo organismo psicofisico è nama rupa. The rupa refers to this body. Rupa si riferisce al corpo. And nama refers to what we would normally call our perceptual, emotional, thinking life, everything else. E quindi per nama si intende tutto il resto, cioè il nostro mondo percettivo, concettuale. Yeah. If for those of you who know of the five khandhas, the five aggregates. Sì, quindi ci sono, come voi forse sapete, cinque aggregati, cinque khanda. This was the way the Buddha saw the human being. Ed è così che il Buddha vedeva l'essere umano. The first is rupa, is the body. Il primo è rupa, il corpo. Mm. Then there are perceptions. Poi ci sono le percezioni. So the way we perceive color, shape, things like that. Il modo in cui noi percepiamo il colore, la forma. Feelings. Sono le sensazioni. Feelings, but yes, sensazione. Then there are all these sankhara. E poi ci sono tutti questi sankhara. So these sankhara is what we would call our emotional thought life. E questi noi li chiameremo la nostra vita emotiva e di pensiero. And finally, the act of cognition. E infine l'atto della cognizione. Mm, that primary, the way that the brain-mind can hold something still for us. Quindi il modo in cui la mente e il cervello può tenere fermo qualcosa per noi. For instance, if you've seen these diagrams of how people look at a picture, you'll see that the eye doesn't see the picture at all. The eye is just picking up little bits here and there, and this is put together in the brain-mind complex as a picture. Per esempio, non so se avete mai visto quei diagrammi in cui si raffigura come l'occhio osserva un'immagine. L'occhio non vede l'immagine nel suo complesso. Vede, cioè, va da un pezzo, da un punto all'altro dell'immagine, poi questa viene ricomposta all'interno di questo complesso mente brain, cervello. Il cervello. And that knowing, that is the act of cognition. E quindi quel conoscere, quel modo di conoscere è l'atto di cognizione. Or consciousness, you can say, but consciousness is such a big word, you know. Si può anche dire coscienza, ma coscienza è una parola molto grande, molto vasta. It's just the first act of knowing. Il primo atto del conoscere. It doesn't mean the second act of knowing you know. Questo non significa, non indica il secondo atto, che è sapere di sapere. Yeah. This knowing you know is the sati that we are developing. Questo sapere di sapere o sapere di conoscere è il sati che noi stiamo sviluppando. So, this nama rupa, this body-mind complex, has six ways of contacting the world and creating a world. Quindi questo nama rupa, questo complesso mente-corpo, ha sei modi per interagire col mondo, per conoscere il mondo. Yeah, it will not come as a surprise to you that they are our five senses and the mind itself. Quindi non vi sorprenderete di sapere che sono i nostri cinque sensi più la mente stessa. And what you notice is that these five senses cannot be confused with each other. Quindi noterete che questi cinque sensi non possono essere confusi uno con l'altro. The Buddha uses the word ayatana. Il Buddha usa la parola ayatana, which means a sphere of experience. Che sta a significare una sfera di esperienza. So the ears can only hear, they can't see. Quindi le orecchie possono solo sentire, non possono vedere. So each of the senses has a specific way of contacting and experiencing the world. Quindi ogni senso ha un suo modo per contattare e fare esperienza del mondo. And the mind, of course, has its own way. E la mente, naturalmente, ha il suo modo. So from these six senses, we contact the world. Quindi attraverso questi sei sensi che noi contattiamo il mondo. This contact is the primary touch of all the senses with its object. Quindi questo contatto è il principale tocco. Principale o primary? Primary, più importante, first, primo. First. Primo. Yeah. Contatto della mente con il suo oggetto. And there, for a moment of contact, there has to be the sense organ, the object, and this act of cognition. E quindi perché ci sia questo contatto, ci vuole l'oggetto, l'organo di senso e questo atto cognitivo. Perhaps you've experienced wondering where a bruise came from. Guardate che avete avuto l'esperienza di chiedervi da dove arrivava un lividdo. Because you didn't quite catch, because your mind was caught up in something else, you didn't catch your elbow bumping into something. Perché la vostra mente era catturata in qualcos'altro, voi non vi siete accorti del vostro gomito che andava a sbattere contro qualcosa. So here we had the first two, the contact and the object, but the cognition, the consciousness wasn't there. Quindi qui abbiamo i primi due aspetti, diciamo, elementi, cioè il contatto e l'oggetto, ma manca l'elemento cognitivo. Now, from all these different contacts, we then begin to divide the world into likable, unlikable, and neutral. Quindi attraverso questi contatti Allora noi cominciamo a dividere il mondo in cose piacevoli, sgradevoli e neutre. Mm. And this we call now Vedana. E questo lo chiamiamo Vedana. Mm. So feelings of contact and Vedana are the same except for this extra perception that they are likable, unlikable or neutral. Ecco, quindi le sensazioni di contatto e questo Vedana sono la stessa cosa, tranne che nel Vedana c'è questa, ancora questa, questo aspetto del distinguerli in piacevoli, spiacevoli e neutri, questa aggiunta. All this process is automatic. Tutto questo processo è automatico. You can't stop it. Non lo potete interrompere. As soon as you look at something, immediately you will have the contact and you'll know whether you like it or not or whether it's neutral. Quindi immediatamente appena vedete qualcosa ci sarà il contatto e voi saprete se vi piace, non vi piace o è neutro. Mm. And what we are doing in our meditation is we are centering on the Vedana. We're centering on the Vedana in order to see what happens next. Quindi quello che facciamo nella meditazione è proprio puntare sui Vedana per vedere cosa succede dopo. And what happens next is Tanha. E quello che succede dopo è Tanha. So this Tanha is the desire to enjoy, to indulge, or the desire to push away, or the desire to run away. Quindi Tanha è questo desiderio di indulgere, di questa attrazione verso l'oggetto, oppure il desiderio di spostarlo, di allontanarlo, oppure di allontanarsi dall'oggetto. This, remember that this word Tanha is specific to this process of desiring which comes from this ignorance. Quindi sapete che questo Tanha è proprio relativo al processo del desiderare che è legato con questa ignoranza. Mm. There is another word in Pali, Chanda, which can also mean a good desire, a wholesome desire, a desire which does not come from ignorance. C'è un'altra parola in Pali che è Chanda, che anch'essa si riferisce al desiderio, ma è un desiderio sano, salutare, che non è provocato dall'ignoranza. So remember that after the Buddha was awakened, there arose in him the desire to teach people the Dharma. Quindi ricordate, dopo il suo risveglio, nel Buddha è nato questo desiderio di predicare agli altri il Dhamma, insegnare il Dhamma. Just as an aside, you will hear writers say that the Buddha had a choice not to teach. Per inciso, voi sentirete o leggerete che alcuni dicono che il Buddha aveva la scelta di non insegnare. This is because when he considered who he was to teach, he didn't see anybody who would be ready to receive this subtle teaching. E questo perché quando si guardò intorno e vide a cui, o pensò a chi doveva ricevere questi insegnamenti, capì che non c'era nessuno che fosse pronto per riceverli. So it was only because the great Brahma god Sahampati came and said to him, "No, please, please teach the Dhamma." Solo perché il grande Dio, la divinità Sahampati venne e gli disse: "No, per favore, insegna il Dhamma." Some people have only a little dust in their eyes. Alcune persone hanno solo un po' di polvere negli occhi. Now, of course, this Brahma Sahampati is, you know, the Buddha's own higher wisdom. Questo Brahma Sahampati naturalmente rappresenta la saggezza, la saggezza del Buddha. Mm. And although there may have been a doubt as to whether people might receive his teaching or not, there was, I believe, no doubt in his mind that he had to teach. E sebbene ci fosse questo dubbio riguardo al fatto che le persone fossero pronte a ricevere gli insegnamenti, secondo il Venerabile non c'era alcun dubbio nella sua mente rispetto al fatto che andassero insegnate e che il Dhamma andasse trasmesso. And the reason I say this is because of the Eightfold Path. Il motivo per cui lo dico è per l'ottuplice sentiero. Mm. Because you cannot have wisdom without virtue. Perché non puoi avere saggezza senza la virtù. Mm. So that's a little aside. Quello era un piccolo inciso. So now we have this problem of Tanha. Qui adesso abbiamo questo problema di Tanha. So this is the first movement in the mind, moving towards the object, to do something with it. Quindi questo è il primo movimento della mente che si avvicina all'oggetto per farne qualcosa. It wants to either create this inner heaven by really indulging in the food. Quindi vuole crearsi questo paradiso interiore indulgendo al cibo. Or it wants to get rid of the next door neighbor because of all the noise they're making. Oppure vuole eliminare il vicino di casa per tutto il casino che sta facendo. Or it simply acknowledges it and doesn't want to do anything about it. Oppure semplicemente ne prende atto ma non vuole farci nulla. And often we're not even aware of neutral feelings. E spesso non siamo neanche consapevoli di queste sensazioni neutrali. In fact, one of the exercise of watching the breath puts us in contact with neutral feelings sometimes for the first time in our lives. E quindi effettivamente questo esercizio dell'entrare in contatto con il nostro respiro ci fa avere esperienza, entrare in contatto con questi stati neutrali per la prima volta. It's the next step which is automatic and which is the point where we lose control. Il passo successivo, che è quello automatico, è del punto in cui noi perdiamo il controllo. And this is called upadana. E questo è chiamato upadana. Which means grasping. Che significa afferrare. And this is where the I comes in. Ed è qui che entra l'io. And then immediately after that, there is the empowerment of the will and an action. Subito dopo c'è il potenziamento della volontà e l'azione. And this action is now part of that conditioning within a person. Questa azione entra a far parte di quel condizionamento interno alla persona. And so therefore this person recreates themselves. E quindi questa persona è come se si ricreasse. And this is becoming. E questo è il divenire. So there you have your links, you see. First of all, there is the contact. Quindi i collegamenti, no? Prima di tutto c'è il contatto. There's the perception of it as being likable, unlikable, neutral. La percezione che sia piacevole, spiacevole, neutro. There's the desire for what is pleasant and the pushing away of what is unpleasant. C'è il desiderio per ciò che è piacevole o lo spingere via di ciò che non è piacevole. There's the identity with that desire. C'è l'identificazione con quel desiderio. And there's the empowerment. E c'è il potenziamento. Bhava. And so we keep becoming and becoming and becoming. E così continuiamo a divenire, divenire, divenire. So, let's see now. I, in English, you could say, I eat, I want the likable cake. Shall I translate? Yes. Yeah. Quindi in inglese, io? But in English it's a transitive verb. Beh, io amo, oh. Mettiamo, io amo il cibo gradevole. Yeah. Likable cake. Scusate, torta. The adjective. The adjective. Psychologically, it's cake, likable, want, I. Quindi dal punto di vista psicologico, invece, è la torta gradevole, voglio, io. Questo è l'ordine in cui sorgono le cose. Mangio. E eat. Poi mangio. this is it, you see, the little flip into doing. E questo è il piccolo salto nel fare. So now we begin to understand how we create this conditioning within ourselves. Quindi adesso cominciamo a capire com'è che creiamo questo condizionamento dentro di noi. So you can see how important it is to catch these intentions. Quindi vedete quanto è importante cogliere queste intenzioni. Because all our conditioning depends upon that intention. Perché tutto il nostro condizionamento dipende da quella intenzione. So when we can perceive an intention clearly, here we have the power to change our conditioning. Quindi quando riusciamo a percepire chiaramente quell'intenzione, è proprio qui che abbiamo il potere di cambiare il nostro condizionamento. If I see a desire which is unwholesome, then I don't have to empower it. Se io vedo un desiderio che non è salutare, allora non necessariamente devo dargli energia. And in this way, that old conditioning will die away. E in questo modo quel vecchio condizionamento poco a poco morirà. Now, of course, that sounds very easy, and all of you know from your meditation, it is extremely difficult. Naturalmente questo sembra molto facile, ma tutti sapete dalla vostra meditazione che non è così facile. And the difficulty is to be able to sit still with that craving. La difficoltà sta proprio nel stare fermi insieme a quel desiderio, yeah. a quella voglia. These conditionings, these unwholesome conditionings, can only be exhausted within consciousness. Questi condizionamenti non salutari possono solo esaurirsi all'interno della coscienza. Mm. I used this image before, but it's very much like a computer. These conditionings remain within us as potentials. Quindi ho già usato questa metafora del computer. Questi condizionamenti rimangono dentro di noi come delle potenzialità. Mm, it's only when a key or the button is pressed that this conditioning arises. È solo quando si preme il bottone o c'è una chiave, allora questo condizionamento sorge. Mm. The Buddha had a word anusaya for this. Buddha usava la parola anusaya. Latent tendencies. Quindi le tendenze latenti. Mm. So we don't know what our conditioning is at all. Quindi noi non sappiamo affatto qual è il nostro condizionamento. Until conditions arise to press the button. Finché non sorgono le condizioni affinché noi premiamo quel bottone. Mm. And here we see in the wheel of dependence origination on this little section around feeling and tanha. Feeling and craving. Yes. Qui vediamo in questa piccola sezione della catena, appunto, della origine dipendente, la relazione tra sensazione e tanha e desiderio. Mm. We see exactly there that this is where we're creating problems. E lo vediamo proprio che è proprio lì che si creano i problemi. Mm. Now, if we see this wrong desire, this desire is the intention. Se noi vediamo questo errato desiderio, questo errato desiderio è l'intenzione. That's the intention. E quella è l'intenzione. Ah. So if we can stay still, feel the intention, feel it rise with all its force, the craving like an animal, and just wait for it to disappear, some energy in that conditioning is dying away. Quindi se noi riusciamo a vedere questo desiderio che nasce e riusciamo a vedere l'intenzione legata al desiderio, riusciamo a starci insieme e non dargli energia, allora, cioè questo desiderio è come fosse un animale, non dargli energia, allora vedremo che lentamente se ne va. Yeah. So you can understand, for instance, how in the early Christian church the mystics would look upon these cravings as devils. Quindi potete capire come i mistici del cristianesimo vedevano questi desideri come il diavolo. And to do that, they must have distanced themselves from it and felt it as some other conditioning power, not them. E loro per fare questo dovevano vederle come una cosa separata da sé, come un potere condizionato che non era loro, che non era loro stessi. Later on, of course, people began to believe that they actually existed. Più tardi poi le persone hanno cominciato a credere che effettivamente esistevano. I diavoli. Which doesn't mean to say that there are not, maybe not, evil beings. Che questo non vuol dire che non ci siano degli esseri malvagi. But the confusion with them, with our inner devils, is a big mistake. Ma è un grosso errore confondere questi con i nostri diavoli interni. Mm. So, with this becoming, we then have to complete the cycle. Quindi con questo divenire, noi dobbiamo poi completare il ciclo. So as soon as you begin an act, it will go through the process and it will come to an end. Quindi una volta che cominciamo questo atto, allora attraverserà un processo e arriverà alla fine. Or if you want to look at it from the three life position. Dalla posizione delle tre vite. Mm. By the time we come to the end of our lives, we have created all the conditionings which will then compel us into another round of existence. Quindi al termine della nostra vita noi avremo creato tutte quelle condizioni che in qualche modo ci spingeranno in una nuova vita, una nuova esistenza. Now, you will let me remind you that in order to undo this whole process, we begin again with this ignorance. Allora, voglio ricordarvi che per disfare tutto questo processo noi dobbiamo ricominciare dall'ignoranza. It's like a castle built of a pack of cards. If you take the bottom one out, everything will collapse. È un po' come il castello di carte. Se tu togli la carta che sta alla base, tutto il castello casca. Now remember that this ignorance, this not knowing, was the not knowing of the three characteristics. Ricordatevi che questo non conoscere, questa ignoranza, è il non conoscere le tre caratteristiche. So every time we really perceive one of these three characteristics, we're taking a card from this whole edifice of the me. E quindi ogni volta che noi vediamo una di queste caratteristiche è come togliere una carta da questo intero edificio del me. So when we see, for instance, this reaction between the Vedana feeling and the craving. Quindi quando vediamo questa reazione tra la sensazione vedana e craving, il desiderio, we are understanding this characteristic of suffering. Quindi noi stiamo comprendendo questa caratteristica della sofferenza. And so we are undermining the ignorance. Quindi stiamo sradicando l'ignoranza. And another little card is being taken out. E un'altra piccola carta viene sfilata. So that is how the wheel of dependent origination works as a whole. Ed è così nel suo complesso che funziona questa ruota dell'originazione dipendente. Now there is something else I want to say which connects this dependent origination with virtue. E voglio dire ancora una cosa che collega questa originazione dipendente alla virtù. When you hear in, especially Theravada Buddhism, the teaching of the wheel of dependent origination, it tends to be a little heady. Quando sentite questi insegnamenti dell'originazione dipendente nella tradizione Theravada, tendono a essere tutti un po' cerebrali. And we forget that actually it includes the life of the heart. E ci dimentichiamo che in realtà invece include e comprende anche la vita del cuore. So, when we say avijja, not knowing, quando diciamo avijja, il non conoscere, this is a mental thing, this is a, you know, an understanding thing. Questo riguarda la comprensione. From the heart's point of view, it is a position of innocence. Dal punto di vista invece del cuore è una posizione di innocenza. Beginning with this not knowing, we then unfortunately make a mistake. Quindi partendo da questa non conoscenza, noi sfortunatamente purtroppo facciamo un errore. This mistake is not culpable. Quindi non ci si deve sentire in colpa per questo errore. It's just a mistake. È solo un errore. So that underneath our mistake, which of course causes me a lot of suffering, there is this platform of not meaning to do harm. E quindi al di sotto di questo errore, per il quale non si è responsabile in qualche modo, c'è comunque questa idea del non volere fare del male. So not knowing, not wanting to do harm, go together. Quindi non conoscere e non voler fare del male vanno insieme. So then we go through this process of conditioning which causes me suffering and helps other people to suffer too. E quindi attraversiamo. Then we go through this process where I cause myself suffering. Quindi entriamo in questo processo in cui noi creiamo sofferenza a noi stessi. And are, as it were, an aid to other people's suffering. Ed è una specie di aiuto, di stimolo, diciamo, alla sofferenza degli altri. Yes. Provoca la sofferenza degli altri. Remember that nobody can cause you psychological pain. ricordate che non c'è nessuno che può causare a voi il dolore, la sofferenza psicologica. That is all self-made. È tutta autoprodotta. So, although somebody can hurt you physically, the internal psychological pain is self-created by our reaction to what people say and do. Quindi anche se potete essere feriti fisicamente, la nostra sofferenza interna è autocreata ed è dovuta alla reazione a ciò che gli altri fanno o dicono. That's why the Buddha says, the world argues with me, I don't argue with the world. Per questo che il Buddha dice, è il mondo che vuole litigare con me, non sono io che litigo col mondo. Yeah. He's at peace with the world. Lui è in pace con il mondo. So now, through this process of meditation and virtuous living, we begin to change this whole inner conditioning. Quindi attraverso questo processo della meditazione, della vita virtuosa, noi cominciamo a cambiare tutto questo condizionamento interno. Yes, and with it there's a growth of wisdom. E insieme arriva anche una crescita di saggezza. So, in the wheel of dependent origination, our virtuous life and our meditation and understanding become right view. E quindi, our virtuous life nella nostra vita virtuosa, and our practice of meditation, la nostra pratica della meditazione, lead us to right view. Ecco, tutto questo ci porta verso la retta visione, o retta opinione, il modo di vedere le cose. This practice is also changing what is in our hearts from all those negative, unwholesome states to positive, wholesome states. Quindi questa disciplina cambia anche tutto quello che c'è nel nostro cuore da gli stati negativi e non salutari in quelli positivi e salutari. Yeah, for instance, hate transforms to love. Per esempio, l'odio si trasforma in amore. And eventually, the end process, the awakening, also presumes a purification. E alla fine il processo finale suppone anche una purificazione. Yeah, there is the enlightenment and the purification. Quindi c'è l'illuminazione e la purificazione. Now this purification is complete, whole, entire. Questa purificazione è completa, intera. It means that this innocence now arises as purity. Significa che questa innocenza adesso sorge come purezza. What is innocence, what is not knowing innocence, becomes wise immaculacy. Quindi quello che era l'innocenza. Not knowing innocence. E quindi questa conoscenza, questa innocenza della non conoscenza diventa. Becomes wisdom, saggezza, and immacolata. So all this is the process whereby all our sufferings and all our discomfort come to an end. Quindi questo è il processo attraverso tutta la nostra sofferenza, il nostro disagio. Vengono a un termine, finiscono. And it is for this reason that in Buddhist understanding, the state of heaven, which is a beautiful state, or of hell, can never be permanent. Ed è per questo che, secondo la concezione buddista, lo stato del paradiso o dell'inferno non possono mai essere permanenti. Because these are created things. Perché queste sono cose create. So when we talk about Nibbana, we're talking about something else. Quindi quando noi parliamo del Nibbana, noi parliamo di altro. Something beyond the wheel of dependence origination. Qualcosa che va oltre questa ruota della originazione dipendente. And every evening every morning we say, those who are mindful are in the vicinity of, or in the neighborhood of, or in the presence of Nibbana. Per questo noi tutte le mattine diciamo coloro che sono consapevoli sono nelle vicinanze di o alla presenza del Nibbana. So, when we are practicing our meditation, we are observing this wheel of dependent origination. Quindi quando noi pratichiamo la meditazione, noi stiamo osservando, stiamo vedendo questa ruota dell'originazione dipendente. Already we have become transcendent of that process. Quindi abbiamo già trasceso, siamo diventati, abbiamo trasceso quel processo. Yeah. It's just unfortunate that we cannot maintain that position. Purtroppo non possiamo, non riusciamo a mantenere quella posizione. The wheel keeps sucking us back into samsara. Perché questa catena, questa ruota continua a risucchiarci nel samsara. Hmm. So our practice is to become stronger and more stable in that position of pure awareness. Quindi la nostra pratica è diventare più forti e più stabili in questa consapevolezza, questa posizione di pura consapevolezza. And that is the process of awakening from this dream. Ed è questo il processo del risveglio, risvegliarci da questo sogno. Ecco. So, magari. Good. So, if you can ring the bell maybe at 5 to 8. I keep forgetting, yes. It's 5 to 8, Piero, something like that. And then we'll... 8 meno 5 ci sarà la campana. Yes, and in the next half hour or so, take time just to feel relaxed. If you want to continue... walking meditation as an insight meditation, please do so. Quindi la prossima mezz'ora fate una camminata rilassata, però se volete fare la camminata come meditazione dell'insight, sentitevi liberi di farlo. But if you just want to use it to relax the mind, to be calm, and to bring that calm, steady mind into the meditation, that is also a good practice. Se volete solo fare una camminata tranquilla e rilassata per rilassare la mente, portare quella mente rilassata poi nella vostra meditazione seduta, fatelo. And if there are any questions arising or any questions about the Dhamma, please put them on this piece of paper. Se ci sono delle domande che sorgono, le domande sul Dhamma, mettetele qui nel cestino. Rather than thinking about it, have the patience, all will be revealed on Sunday. Piuttosto che pensarci, abbiate pazienza, tutto vi sarà rivelato domenica. Bene.